Va bene. Va bene, va bene, va bene. Poi sono... è un lungo viaggio da Venezia, eccetera. Mm-hmm. Allora, sì. Cominciamo proprio da Venezia. Intanto, com'è andata la presentazione del tuo documentario L'Oro di Cuba? Ma mi pare che c'è stato molto calore in sala, era naturalmente fuori concorso, sì. Giustamente, poi alle 2:30, 2:45 la proiezione, però molta gente, mm-hmm. molti ragazzi, e mi ha fatto piacere, molto... ho avuto la sensazione di piacevole, di una piacevole atmosfera, anche alla fine, prima e alla fine, allora va bene. Bene, un po' bene. Più bizzarro quando c'è stata la conferenza stampa, dove uno mi ha chiesto come mai c'è la poca contestazione a Fidel tra i cubani. Io ho detto che se vuole finanziarmi un documentario per sentire parlare di Fidel mi deve mandare, me lo finanzia e vado a Miami, sentirò quelli che ce l'hanno con Fidel. Non ho capito, tu vai lì ufficialmente, parli con... poi ho voluto parlare non con i grandi, non ho intervistato i politici di livello, io ho solo la figlia di Raul, mm-hmm. il resto è tutta la gente, una sportiva, un grande musicista, un attore, un regista, a scuola di cinema, eccetera, poi anche l'università, cioè, ho fatto la fascia delle persone, ma poi sai, voglio dire, il titolo Oro di Cuba è un titolo che ha un senso, è l'amore che i cubani hanno per la loro terra, una cosa emozionante, il vero oro è l'amore per la loro, che dovremmo insomma impararle molti in Europa, l'amore per la propria terra, non so, perché è veramente emozionante, anche gente che va fuori, tu vedi, sono un attore che ha girato in Spagna, ha girato altri film, è stato anche in Francia, cioè, hai avuto delle proposte, poi sì, anche allettanti, ma io devo tornare qua perché questa è la mia gente, io un musicista che ti dice... io come posso fare scrivere musica lontano quando vedo una ragazza camminare nel lungo mare della mia città, L'Avana, mentre la vedo camminare mi viene la musica, mm-hmm. vedo il mare, lei che si muove, quel sole e mi vengono le note, mi viene l'ispirazione, quindi. E poi voglio dire, sai, il destino del regista è strano, perché il primo film che ho fatto, presentato a Venezia, sì. era Tira al piccione, mi hanno accusato di essere di destra. Quando sono andato a fare Sacche Vanzetti a Cannes, mi hanno accusato di essere anarchico. Quando ho fatto Gli occhiali d'oro, mi hanno accusato di essere frocio. Come vedi, il destino è molto bizzarro. Adesso chissà cosa mi accuseranno, certo. Ma il problema di un film, come sai, è, tu lo sai bene, è incominciare un discorso. Noi non abbiamo, cioè un'università intellettuale si dovrebbe avere sempre a portata di mano, ovviamente, ma quello che conta è aprire un dibattito, un discorso, una voglia, tu apri una finestra, certo, guardate fuori, certo. E cominciate a discutere voi. Certo. Questo secondo me è il compito in un'ora, 10, un'ora e un quarto. Io faccio Giordano Bruno, un'ora e un quarto, o 2 ore, non posso pensare che ho raccontato tutta la vita di Giordano Bruno. Mm-hmm. Quando sono andato a un dibattito al convento di San Domenico Maggiore a Napoli, dove c'erano i domenicani, ero solo, ero pieno di sembrava di essere allo stadio della Juventus, era tutto di bianco e nero, perché i domenicani sono vestiti così. E allora... a un certo punto mi fanno delle domande, anche qualche giovane, anche un po' aggressivo, ho detto guardate, ho visto che avete un cortile qua fuori, se ci avete delle fascine io sono pronto, datemi fuoco pure a me. Però allora è cambiato l'atteggiamento ed è cominciata finalmente la discussione mm-hmm. intorno a un personaggio straordinario come il mio amico Giordano. Mm-hmm. E questa... Senti Giuliano, allora per chi ci ascolta e non ha ancora potuto vedere il tuo lavoro, tu come l'hai strutturato, come hai organizzato questo? No, io adesso guarda, il 2 di ottobre sì. esce il DVD. Ah, ok. Quindi e poi verrà presentato, mi hanno detto proprio ieri, dopo la diffusione DVD, speriamo che funzioni. E poi vedi, è stato fatto molto su quella terra. Mm-hmm. Naturalmente ho raccontato che però, voglio dire, c'è stato il muro di Berlino, c'è stata la Cecoslovacchia, c'è stata la, c'è stato, però lì c'è ancora Cuba. E vedono nei giorni sì, di sereno, vedono l'albero della cuccagna che è lì davanti, perché l'albero della cuccagna è l'America. E insomma, voglio dire, è chiaro che hanno avuto l'embargo, privazioni eccetera, 600 attentati, è chiaro che c'è stato anche dei momenti di disperazione, però sì, ti ripeto, l'amore per la loro terra fa sì che dalla disperazione si arrivi adesso ad aspettare degli eventi che sono inevitabili, perché Fidel sta male, lo sappiamo, dovevo vederlo, non mi è stato possibile, sarebbe stato anche insistere, sarebbe stato anche cretino. So che è un uomo che dispiace farsi vedere bello e in questo momento è sciupato, perché è un bel cast, loro due erano un cast pazzesco. Tu hai mai visto una maglietta con Ho Chi Minh? No, cioè, le magliette non con Ho Chi Minh, che è più bruttino, ma le magliette con quei due, è un bel cast, dai, su. Giuliano, l'idea del documentario è venuta a te, ti è stato proposto, come è nato tutto? No, allora ti dico tutto, io per ben due volte mi era stato chiesto di andare a Cuba. Sì. Per la scuola di cinema, sì, e per mia fortuna, beh, però con dolore, per mia fortuna stavo lavorando e quindi ho dovuto rinunciare, ma con dolore, perché tutti quelli che sono tornati da Cuba, sia vabbè il grande Zavattini, ma anche Scola ed altri, e Birri eccetera, mi avevano detto, anche Leo Pescarolo, mi avevano detto che era una cosa straordinaria, ed è vero, la scuola di cinema è una cosa che emozionante, davvero. Sì, sì. E c'è stato Spielberg, c'è stato Coppola, c'è stato l'idio di persone a fare degli stay al Domova, cioè c'è stato l'idio di Dio da quelle parti. Allora, quando mi hanno detto ma un film su Cuba, senza sapere che cosa, lo farei, io alla parola Cuba ho detto subito sì, perché mi piaceva andare, ho detto sì, e poi mi è venuto in mente che si poteva raccontare i 50 anni di questa lunga e affascinante avventura. Mm-hmm. E questo ho raccontato. Bene, bene. Con del buon materiale di repertorio che una mia straordinaria montatrice, sì, che si chiama Simona Paggi, ha trovato, con non accontentandosi mai. Fino alla, guarda, la proiezione era a me, vicino a me, a Venezia, alla proiezione mi dice, vedi, se trovavamo ancora due fotogrammi per quella, dico guarda è finito, siamo è finita, ma è meraviglia, guarda, quando la gente la vedi così appassionata è una meraviglia, una meraviglia. Giuliano, allora a inizio ottobre lo vedremo in DVD e io ti ringrazio molto, grazie di essere tornato nostro ospite e spero di averti presto prossimamente per altre cose. E lo spero anch'io, speriamo che troviamo qualche, speriamo che, vedi, c'è l'ora di Cuba e poi noi invece abbiamo gli spiccioli di Bondi. Ciao. Ciao Giuliano, a presto. Ciao. Giuliano Montaldo, regista del documentario L'oro di Cuba, presentato a Venezia. Questa è Visionari e noi andiamo avanti. Maurizio Zaccaro, regista del documentario Il Piccolo, eccoci qui. Ciao a tutti. Tutto bene? Bene, grazie. Se sentite un po' di rumori perché sono in giro in una stazione. In viaggio come sempre. Allora, quest'oggi carrellata di documentari veneziani, il tuo Il Piccolo come è andato intanto? Ma molto bene, anzi, per un documentario, sai. Sì. È sempre una gran soddisfazione quando ci sono degli applausi anche a scena aperta durante la proiezione in sala grande, quindi una grande emozione comunque. Per chi ci ascolta e non sa nulla dell'opera, racconta un po' di cosa si tratta. Guarda, mi hanno fatto uno scherzo fra l'altro gli amici di Hollywood Party, che alla trasmissione dicevano il piccolo giornale di Trieste, invece invece si tratta del piccolo teatro di Milano e della storia che racconta un po' com'è nato attraverso Streller e Paolo Grassi dal 1947 ad oggi. Sì. E poi raccontando anche non solo quello che viene nel teatro, ma quello che viene soprattutto nella città parallelamente in questi anni, cioè in 60 anni di storia. Sì, sì, e sì. Di conseguenza, sì. Tutto quello che sai, anche le parti meno belle come Piazza Fontana, alternato agli spettacoli che in quel momento si facevano al Piccolo, che sono stati sospesi con la bomba. E così sì. Si racconta un po' un'immagine parallela tra la città e il suo teatro più storico, unico fra l'altro, stabile. Il primo stabile d'Italia, diciamo. Quindi anche un patrimonio storico unico, insomma. Esatto. E poi, niente, attraverso degli amici che mi hanno aiutato a raccontare questa storia come attori, intendo, tipo Leo Gullotta, Giuseppe Battiston, Paolo Rossi e tanti altri, e ho cercato di evitare quella che è la struttura classica di un documentario, cioè la voce fuori campo, le interviste, ed è tutto fatto di incontri abbastanza casuali, spontanei, e questa è la cosa più bella, credo, che si possa vedere nel film. Sì, sì, sì. La tua era una passione che coltivavi da tempo, come hai scelto il piccolo? Ma io sono di Milano, lo sapete, quindi per me è stato un po', non abito più Milano da tanto tempo, ma per me è stato un po' come tornare a casa. E soprattutto proporre un'altra volta questa storia, nel senso che tempo fa si facevano gli spettacoli per la televisione immediatamente allo spettacolo teatrale per delle riprese televisive, adesso non si fanno neanche più e di conseguenza si è perso un po' il valore di quelle cose, il valore di una cultura profonda, e questo è un lungo discorso che tu sai dove va a finire. Sì, ecco, appunto, ti volevo chiedere in proposito, c'è stata la crisi, ci sono stati i tagli al FUS e rispetto alle altre arti, il teatro, rispetto per esempio al cinema di cui ci occupiamo come trasmissione, il teatro sembra quello che ha pagato più forti le conseguenze di tutto questo. Facendo questo film, fra l'altro abbiamo fatto delle lunghissime ricerche, questa è anche stata la parte più bella di tutto il lavoro. E oltretutto abbiamo parlato con diversi direttori di stadi di teatri italiani. Sì. Sai, uno scopre che all'improvviso ci sono 400 teatri che in 20 anni hanno chiuso i battenti. Allora a questo punto c'è da farsi, da porsi una domanda, dico, ma come mai questi teatri 430, non sono 30, sì. In tutte le città d'Italia, anche nelle piccole città, succede qualche cosa dove fino ai fondi non arrivano, per cui i teatri chiudono. Un po' è una storia abbastanza, insomma, particolare, merita magari un altro documentario. Sì. Maurizio, rispetto alla storia del Piccolo, hai fatto scoperte per te sorprendenti? Ma rincontrare la Giulia Lazzarini, l'Andrea Jonasson, Franco Graziosi e tanti altri attori che hanno lavorato per la Valentina Cortese e tanti altri attori che hanno lavorato per anni e anni, decenni al Piccolo Teatro, che ti raccontano la storia. Per me è stato importante, ma credo che sia importante per qualsiasi spettatore, non solo che ami il teatro, ma anche che si pone verso queste cose come fonte di arricchimento. Certo. E questo per me è importantissimo, cioè una volta che ci vengono tolte queste situazioni, ci viene spazzata via appunto quello che è la nostra fonte di arricchimento sulla cultura, dove andiamo a finire. Sì. Ci leggiamo i bigliettini come si usa un cellulare. Sì. Manuali. Senti, al momento com'è la situazione del Piccolo? Che ci puoi dire? Piccolo in questo momento sta facendo un grande programma, nel senso che importa molti spettacoli anche dall'estero. Sì. E quindi questo cosa ti crea? Ti crea appunto lo scambio di culture e di reciproco arricchimento. E gli spettacoli sono imponenti, c'è Patrick Chéreau, Pascal, ce ne sono parecchi. Oltretutto hanno un nuovo spettacolo dove ci sarà Roberto Saviano direttamente sulla scena a raccontare un po' la sua storia. Mm-hmm. Questo credo che, se non sbaglio, venga ad ottobre, ma chiunque interessato al Piccolo resterà strabiliato di fronte al sito web che il teatro ha organizzato, perché è pieno di materiali, di documenti, di foto inedite, di bozzetti delle scene, sono costumi, e io invito chiunque sente queste parole a dargli un'occhiata, poi dopo da lì chissà cosa c'è dentro, insomma, che spettacoli propone il piccolo. Sì, sì, sì. Maurizio, oltre ai percorsi festivalieri, il tuo documentario si sta lavorando per una eventuale programmazione o uscita in sala? Sì, dovrebbe uscire nelle sale, fra l'altro ho già fatto richiesta dalla sala della Cineteca di Bologna, a Milano, attraverso appunto l'Anteo. Insomma, ci sono delle situazioni che sono molto simpatiche, anche poi dopo ci sarà una grande prima che non abbiamo ancora fatto a Milano, ovviamente, perché noi, io calcolo che ho finito il film poco prima di Venezia, è stato presentato a Venezia il 10 di settembre, ma è ancora caldo, diciamo, appena finito, non a caso proprio ieri ho fatto alcuni ritocchi dopo la proiezione in sala grande, insomma, perché lì sai, ti accorgi veramente cosa va, cosa non va. Quindi diciamo che è ancora in lavorazione, ma è ultimato da poco. Bene, allora spero di risentirti in occasione dell'uscita in sala. Va bene, scusate il rumore di questa non stazione, ti preoccupare. Va bene, un abbraccio, a presto, ciao, ciao Maurizio, ciao, ciao, ciao. Maurizio Zaccaro, regista del documentario Il Piccolo, e sempre per parlare di documentari ci spostiamo ad una regista. San Giovanni, regista del documentario Ragazze, la vita trema, ben trovata. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, Venezia, che cosa ha detto Venezia? Venezia quest'anno era molto molto ricca, diciamo. La nostra sezione e giornata degli autori è stato molto interessante anche per i documentari, e io in modo particolare sono stata molto contenta di essere a Venezia con il mio film. Come è stato accolto? È stato accolto bene, mi sembra. Mi sembra che ci sia stato sì molta insomma attenzione e anche calore, insomma attenzione per l'argomento e anche credo per questo lavoro di memoria e anche di sguardo critico sul presente attraverso il passato. Credo che questa cosa sia stata abbastanza colta. Bene, e proprio a proposito di questo, per chi come me non l'ha ancora potuto vedere, sì, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, Ragazze, la vita trema è il racconto di quattro donne che avevano 20 anni circa negli anni 70, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quindi è il racconto di una parte della nostra storia recente, in modo particolare il decennio che va dal 67 al 77, sì, raccontato da quattro donne, diverse tra loro, ma i loro destini, diciamo, i loro percorsi si sono incrociati durante la stagione del femminismo. Sì. Quindi si parla di quel periodo attraverso dei racconti personali di vita vissuta e in modo particolare il percorso delle donne, quindi di quelle ragazze dell'epoca, fino ad arrivare al percorso, diciamo, di consapevolezza di sé e di messa in collettivo di questo modo nuovo di fare politica che è stato il femminismo. Non si parla soltanto di femminismo, di storie di donne, ma si parla della società intera, sì, sono naturalmente dei lanci, come forse potete immaginare, molto importanti sul presente, sulla condizione delle donne nel presente, nel nostro paese, ma non soltanto. Quindi diciamo che ci sono dei percorsi personali dell'epoca, ma che rilanciano dei temi che sono molto attuali, perché la condizione delle donne è, diciamo, uno specchio dell'intera società. sì, anche oggi, no? nel nostro paese. Sì. Quindi ci sono appunto il ricordo, perché questo è un paese che ha poca memoria, ricordo cose che noi oggi diamo per scontate, di diritti acquisiti che noi oggi diamo per scontati, ma che invece sono stati un percorso di lotte anche durissime, no? Sì, e anche con esposizioni personali molto grandi. Quindi ecco, poi lanci verso il presente sono soprattutto il discorso della violenza in tutte le sue situazioni, sì, la violenza sulle donne. Sì, sì, sì. Ti ho interrotto, sì. Vai. No, ma infatti diciamo che un filo rosso che lega queste narrazioni è proprio la violenza, la violenza in tutte le sue declinazioni, dalla moda, dall'educazione infantile fino ad arrivare alla violenza sessuale. Sì. A proposito di questo aspetto, tu hai parlato più volte di lanci rispetto al presente, invece i tratti di discontinuità, cioè qual era per esempio la caratteristica unica che oggi non si ritrova rispetto alle storie che hai esaminato? Sicuramente la passione civile. Ecco. Il avere un progetto collettivo, sì, per il bene della società, cioè il pensare alla politica, all'idea della politica come un'idea di bene comune, sì, e non naturalmente insomma di gestione personale del potere. Mm-hmm. Queste diciamo che poi ovviamente era un tratto caratteristico, sì, della politica dell'epoca, ma soprattutto della politica che hanno fatto le donne, tant'è vero che il partire da sé, no, che è questo concetto caro al femminismo, per arrivare all'idea politica della collettività, lo dice proprio, no? Cioè il partire dalle proprie problematiche, no? Dal proprio modo di vivere nella società, dai propri problemi, eccetera. La scoperta invece che questi problemi erano una materia collettiva, cioè che tutte stavano in un certo modo, soffrivano di determinati problemi, e attraverso questo arrivare a una pratica politica. Mm-hmm. E quindi appunto una pratica politica che vedeva al centro il bene collettivo, in questo, sì, caso, sì, in particolare, sì, chiaramente delle donne. Quindi non so, diciamo che c'è una parte che diventa anche molto romana, forse c'è qualcuno che si ricorda che a metà degli anni 70 è stato occupato questo posto, che poi nel corso del tempo è diventata in un altro posto la Casa Internazionale delle Donne, sì, e che allora era in via del Governo Vecchio, ma è stato un luogo emblematico di come abbia avuto la capacità il femminismo di essere un fatto proprio diffuso, sì, cioè sì, che era completamente trasversale alle classi sociali di provenienza e anche alle età, quindi un fatto fortemente collettivo, e poi una grandissima vitalità, sì, del periodo, sì, sì, sì, una, sì, grandissima vitalità, un amore proprio per la vita, molta emozione, molto sentimento. Ecco, tu dicevi, no, la differenza, sì, con, sì, sì, con, sì, l'oggi, sì. Il desiderio di essere protagonisti della propria vita, sì, no? Sì, sì, quindi sì, questo desiderio di prendere in mano la propria vita, sì, sì, sì, e di avere chiaramente uno sguardo critico in prima persona sul reale e la possibilità di cambiare lo status quo, sì, sì, questo, sì, è un sentimento molto vitale, molto vivo, che oggi siamo molto, no, a ritrovare. Sì. Paola, rispetto a quelle storie di militanza, esperienze di militanza, io volevo chiederti, hai trovato dei tratti di continuità rispetto all'esperienza del femminismo oggi? femminismo oggi? Guarda, io diciamo che prima di tutto non appartengo a quella generazione di cui io parlo, sì, perché sì, sono la generazione successiva. Okay. Il mio film si ferma nel 77. Sì. E questo non significa che il femminismo poi non abbia avuto un percorso fino ai nostri giorni. Sì. Sicuramente io credo che si è fermato questa idea appunto di una politica diffusa, mm-hmm, veramente diffusa, mm-hmm, nelle città, nei paesi. È un modo di fare politica che è entrato ovunque, che ha cambiato tantissime vite. Mm-hmm. Ecco, io nel presente da diversi anni vedo un'elaborazione filosofica importante, no? Mm-hmm. Però non un lavoro così così collettivo, così insomma, allargato. Sì, sì. Mm-hmm. Questa è la una, sì, ma e poi comunque appunto siamo in un paese che ha subito tantissimi traumi da allora, no? Quindi mm-hmm, il discorso anche di valori oppure di cose, di diritti, di traguardi che sono stati conquistati, in realtà nel corso del tempo sono stati come svuotati dal loro significato originario. Io sì, parlo soprattutto attraverso i mass media, cioè la violenza è molto più pervasiva, no? Sì, sì. Quindi sì, c'è sì, una difficoltà anche proprio a riconoscerla, mm-hmm, in qualche modo. Io dico la violenza in assoluto, ma in modo particolare nei confronti delle donne. Sì, per cui sì, la situazione è più molto più complessa. Sì, ecco. Sì, sì. Paola, ragazze, la vita trema, ci sarà modo di vederlo prossimamente? Guarda, io spero di sì. Non abbiamo ancora una distribuzione, come sappiamo è difficile, è un documentario narrativo. Sì. C'è uno spazio internet c'è uno spazio sì, internet consultabile? Sì, su fakefactory.it. Facebook. C'è il nostro okay, sito, c'è un mini sito di Ragazzi la vita trema. Okay. Noi siamo ancora alla ricerca di una distribuzione, ma abbiamo avuto veramente delle risposte molto, molto buone. Bene, anche bene, di alcune proiezioni che abbiamo fatto in sala, di pubblico. E allora spero di risentirti in occasione di un'uscita. Sì, va bene. Va bene. Grazie. Un abbraccio, Paola. Anche a te. Ciao, a presto. Ciao. Paola San Giovanni, regista del documentario Ragazze, la vita trema. Regista del documentario Via della Croce, eccoci qui. Buongiorno, ciao. Come stai? Insomma, un po' di tosse, quindi mi scusa se ogni tanto... Ok. Ecco. Ok. Allora, per anche tu presente, stiamo sentendo tutti i documentari presentati a Venezia. Ah. Com'è andata? Ma direi bene, nel senso che la ricezione del pubblico è stata molto calorosa, molto così affettuosa e entusiasta. Per noi è stata un'esperienza veramente molto interessante, mm-hmm, nel senso che siamo tutti nuovi all'ambiente. Dico io come regista, il produttore che in realtà è il direttore è il presidente della Casa dell'Ospitalità e gli ospiti appunto della Casa dell'Ospitalità, che è una struttura che accoglie le persone senza fissa dimora, mm-hmm, i quali ospiti sono gli attori del film. Bene, bene. Ecco, io ero proprio interessato, leggendo del tuo documentario, di questa, di sapere di questa esperienza, di questa casa di accoglienza, anche perché accoglie persone provenienti da più parti del mondo, di più confessioni sì. religiose, insomma, come si struttura questa... Dunque è una struttura che fino a qualche anno fa era comunale sì. e adesso è diventata fondazione e comunque è ancora lautamente finanziata e supportata dal comune sì. ed è un ex asilo notturno, cioè una volta era un asilo notturno, adesso è diventata una comunità, nel senso che le persone non vengono mandate fuori alla mattina presto mm-hmm. e quindi possono vivere nelle case che sono a Mestre e a Venezia. A Mestre di quante persone stiamo parlando presso a poco? A Mestre ci sono, mi pare, intorno alle 250 persone sì. e a Venezia invece piccola sono 22 persone, tutti uomini a Venezia uh-huh. e sono sia italiani sì, e sia appunto ci sono molti stranieri, insomma molti... molte persone che vengono un po' da tutto il mondo. Come si svolge la giornata all'interno di questa struttura? Dunque, tutti ci sono attività? Sì, tutti i lavori intanto della casa, cioè pulizie, cucina, spese, eccetera, sono svolte dagli ospiti che sì. hanno i turni. E poi oltre a questo hanno dei gruppi che sono autogestiti, dove appunto discutono i loro problemi, insomma gruppi di dibattito, di scambio, insomma di dialogo e anche di organizzazione delle varie mansioni, eccetera. E poi ci sono delle attività da qualche anno, appunto dei corsi di pittura, c'è stato un corso di scultura, e poi ci sono stata io che ho fatto due film con loro. E adesso però stanno anche, per dire, dipingendo un sottopasso a Mestre. Hanno avuto la commissione del comune insieme a degli studenti dell'artistico di Venezia. Quindi hanno anche una visibilità pubblica a queste sì, attività. Stanno insomma. Cominciando appunto a lavorare anche sul territorio, che è una cosa molto importante, perché il corso d'arte fine a se stesso può servire a livello terapeutico oppure comunque di condivisione di un momento, eccetera. Però il fatto che invece diventi anche produzione di qualcosa per l'ambiente in cui si vive, mi pare che sia una novità, è una cosa molto importante sì, sì, per sì. tutti, insomma, ecco, sì. Per la maggior parte si tratta di migranti o di persone che quindi persone che in una fase di passaggio o persone che si stanno stabilendo in città? Beh, guarda, alcune persone sono più anziane e sono sì. anche magari di Venezia, che non hanno case e quindi vivono là. E altre persone invece arrivano, passano, cioè ci sono molte situazioni diverse e non c'è una politica per cui uno può stare solo un determinato periodo, no? Nel sì. senso che la casa accoglie e poi si capisce la situazione, si vede come va, ma insomma certo si tende appunto a non voler stabilizzare questa condizione, nel mm-hmm. senso di sviluppare appunto indipendenza nel senso di alloggio, lavoro, eccetera, però non per tutti insomma la situazione è uguale, anche magari fisicamente, magari per quanto riguarda la giustizia, eccetera, quindi ci sono molte situazioni diverse, ecco. Mm-hmm. Quello che hanno in comune è che tutti si sono trovati per strada, insomma, per un motivo o per l'altro. Sono persone che appunto non hanno casa, non hanno lavoro e spesso hanno anche rotto i rapporti con la famiglia, con insomma. Mm-hmm. Volevo chiederti, i criteri di accoglienza quali sono della struttura? Beh, i criteri, chi si presenta gli viene fatto un colloquio un po' per mm-hmm. capire appunto che problemi ha, eccetera. E poi c'è una lista d'attesa, nel senso che insomma i posti sono quelli e i senza fissa dimora aumentano veramente vorticosamente negli ultimi mesi, anni mm-hmm. e quindi però si accoglie tutti, insomma, sì, ecco sì. Ora c'è il problema appunto con gli extracomunitari che non hanno il permesso, che non hanno, e quindi questi credo che adesso non possano essere accolti, insomma, però... Quindi c'è stata una restrizione effettiva? Sì, credo proprio di sì. Sì, sì. Beh, perché appunto viene poi criminalizzato chi assiste a queste persone, quindi non si può proprio fare, insomma. Mm. Ecco, proprio rispetto all'assistenza, che figure professionali ci sono all'interno? Dunque, c'è un direttore che è una persona che partecipa, direi proprio in primissimissima persona, anche perché questo suo trasformare il dormitorio in comunità è proprio la sua creatura, no? E sì. Quindi fa tutte le riunioni, è sempre lì, presiede, fa i colloqui, insomma è una persona, ma è molto vicina a queste persone, voglio dire, non ha un rapporto di gerarchico, no? Nel senso proprio vive, insomma compatisce con loro, direi, le loro condizioni. E quindi c'è questa figura molto importante, molto appunto predominante. Poi c'è il presidente, che appunto è Giovanni Benzoni, il direttore si chiama Nerio Comisso. Poi c'è il presidente, che pure partecipa, eccetera, e poi ci sono degli operatori. Solo nelle ore alla mattina e alla sera fanno qualche ora per gestire appunto le accoglienze, un po' i turni, queste cose qui. Però il tutto è co-gestito con gli ospiti, ecco, c'è questo tipo di rapporto, per cui le figure che lavorano lì insomma collaborano con gli ospiti. Serena, ci sarà modo di vederlo? Sono previsti passaggi televisivi o una distribuzione in sala? Dunque, non abbiamo ancora trovato una distribuzione, speriamo che qualcuno si faccia vivo, però abbiamo molte richieste adesso di proiezioni, un po' in giro per l'Italia, e quindi stiamo organizzando già delle proiezioni. Credo che a novembre probabilmente ce ne sarà una a Roma, però non dico ancora niente per sicurezza, e anche a Milano, e da lì insomma pensiamo di fare varie proiezioni in giro per l'Italia intanto, ecco, e poi insomma siamo aperti a qualunque, sì, insomma. Senti, in internet c'è qualcosa di consultabile? C'è un sito del film che è www. Via della Croce, tutto minuscolo, tutto attaccato, .it. Sì, benissimo. Ecco, lì c'è un po' tutto. Un'ultima domanda, come è nata questo tuo interesse per questa esperienza? Guarda, io ho conosciuto due di queste persone quando erano ancora per strada, qui a Venezia, e poi negli anni un po' ogni tanto ci si incontrava per strada così, e un giorno mi hanno detto che alloggiavano appunto in questa casa dell'ospitalità, e così sono andata a trovarli, e da lì ho conosciuto un po' gli altri, e poi con un'operatrice molto brava, Anna Recque, che voleva fortemente cominciare dei corsi d'arte eccetera all'interno della struttura, abbiamo un po' cominciato a organizzare questi corsi di pittura, di scultura, con delle persone, con dei professori, insomma. Io ho collaborato un po' così marginalmente, ma insomma erano dei veri corsi, e niente, conoscendo e frequentando un po' queste persone mi è venuta voglia di condividere le loro storie, ma anche l'atmosfera che ho trovato lì dentro, di grandissima umanità, di grandissima accoglienza, cioè avevo proprio voglia di documentare questa cosa, in più di fare una cosa con loro, perché sì, non è solo documentario, ma c'è tutta una parte anche, tra virgolette, artistica, insomma, dove appunto si narra la passione di Cristo con le stazioni della Via Crucis, che sono realizzate con dei tableau vivant, dove gli ospiti appunto inscenano le varie stazioni della Via Crucis, e quindi era anche una cosa bella fare girare con loro queste cose in giro per Venezia, insomma è stata un'esperienza molto nuova e bella così. Bene, allora spero di riparlarne in occasione della uscita in sala. Grazie mille. A presto, Serena. Ciao, grazie. Ciao. Serena Nono, regista del documentario Via della Croce, ancora una regista e ancora no, questa volta un cortometraggio, sì, però sempre presentato a Venezia. Ed è Elisabetta Pandimiglio, regista del cortometraggio Mille giorni di Vito, ben trovata. Grazie, buonasera a tutti. Come stai? Bene, bene. Allora, a Venezia questo cortometraggio, tra l'altro questa emittente si occupa sempre molto da vicino, abbiamo anche un'agenda che si chiama Scarceranda, appunto della questione carceraria. Il tuo cortometraggio si occupa di, è andata a vedere la vita dei figli, dei figli piccoli delle detenute. Sì. Allora, intanto volevo dire, sì, a Venezia il mio cortometraggio non era nella sezione dei cortometraggi, ma è stato ospitato eccezionalmente alle giornate degli autori. Ecco. E quindi, insomma, io sono stata molto contenta di questo, perché comunque è stata data attenzione anche a un film che per scelta è un film di una durata un po' fuori formato, diciamo così, sì, quelli che vengono definiti fuori formato. Sì, io in realtà ho fatto un'operazione che non è un'operazione documentaria. Mm-hmm. Ho un po' inventato una forma che andasse bene per raccontare il tema, che è un tema molto delicato e complesso. Certo. Perché è il tema di questi bambini che trascorrono in carcere i primi loro mille giorni. Si chiama Mille giorni di Vita, appunto, perché i primi mille giorni, o comunque i giorni compresi in quelli che sono considerati i più importanti per la formazione di un essere umano. Sì, sì. E in realtà quando ho avuto l'idea di fare questo film, che è stato molto tempo fa, una decina di anni fa, ho iniziato volendo fare un documentario vero e proprio. Poi non mi andava di fare un qualcosa dove altri parlassero di un qualcosa che secondo me si può rappresentare solo attraverso il punto di vista di chi vive questo, e quindi ci ho messo tanto tempo, perché non volevo fare una finzione, perché non mi sentivo di farla, perché avevo paura di forzare quello che volevo raccontare. E il documentario, ripeto, mi sembrava una cosa un po' troppo forse semplice, dove avrebbero parlato degli esperti, avrebbero parlato magari il personale del carcere. Quindi ho utilizzato la tecnica che si utilizza per il documentario di solito, e però ho fatto lavorare un piccolo protagonista inconsapevole. Mm-hmm. Che però è un protagonista, non è un bambino che ha vissuto l'esperienza della detenzione. Sì. Quindi una fiction praticamente. Guarda, io non so come definirla, io dico è un piccolissimo film della realtà, perché in realtà quello che ho rappresentato sono le emozioni, lo smarrimento, le paure vere di un bambino catapultato in questa situazione. Sì, catapultato in questa situazione. In realtà io poi il mio film racconta il mm-hmm. dopo, cioè il momento secondo me clou di questa situazione, quando questi bambini al compimento del terzo anno d'età vengono separati traumaticamente dalla madre, sì, e quindi tirati fuori dal carcere, e l'unica possibilità che hanno di rivederla è rientrare in carcere, quindi rivivere tutto quello che hanno vissuto nei primi anni di vita. Mm-mm. Come eri venuta a conoscenza di questo universo particolare dei piccoli figli di detenute? In realtà avevo letto una piccola notizia con una grande foto, una piccola notizia in uno di quei giornali che ti danno, ero in metro, ho visto questa cosa in un giornale di quelli che ti davano nella metro, sì, uno dei primi, credo che fosse Leggo o Metro, non mi ricordo adesso, e c'era una foto di uno di questi bambini detenuti al passeggio, cioè con le mani incrociate dietro, che camminava tra due detenute adulte facendo il passeggio, no? L'andatura tipica dei detenuti. E non è una cosa che si sa molto, perché l'ho visto anche adesso che il film è andato a Venezia, così. È strano, è un qualcosa di cui non si parla molto, anche se c'è stata una legge nel 2001, la legge della Finocchiaro, ci sono nuovamente delle proposte di legge difficili da applicare, perché è difficile conciliare poi quello che è giusto con quello che è la realtà, no? Mm-hmm. E poi anche perché apparentemente si parla di piccoli numeri, perché questi i bambini sono sempre, allora 10 anni fa quando io ho saputo questa cosa i bambini erano un centinaio, sì, i bambini reclusi nelle carceri italiane, oggi dopo 10 anni sono ancora un centinaio, però dietro questi piccoli numeri ci sono dei grandi numeri, perché poi il problema è anche il rapporto dei bambini e dei figli di detenuti con il carcere, e in Italia credo che siano circa 43.000. Quindi è strano, il piccolo numero sembra quasi un alibi per non occuparsi a fondo di un problema. E tra l'altro, quando io ho saputo di questa cosa, ero ancora attiva in un'associazione di volontariato che si occupa di violenza alle donne, quindi la mia prima lettura è stata, ecco, l'ennesima violenza nei confronti delle donne anche all'interno del carcere, perché sono poche, quindi c'è una scarsa attenzione a quella che è la maternità, no, lo specifico femminile. Poi in realtà negli anni mi sono continuata a documentare, ho visto tutte le varie proposte di legge, tutto quello che è successo, e poi ho visto che non è poi neanche così semplice. È chiaro, è una discriminazione, perché le donne all'interno del carcere sono una minoranza, sono il 5% dell'intera popolazione carceraria, sono circa in Italia 2500, e le donne straniere, che sono la maggior parte delle donne detenute in Italia, sono ancora più discriminate nella discriminazione, ovviamente, perché non possono usufruire delle misure alternative, no? Degli arresti domiciliari, non avendo un domicilio, eccetera. Però poi in realtà ho visto che è troppo semplice liquidare la questione così, e che è molto molto complesso. Io in questo piccolo film di 10 minuti ho condensato tutta una serie di problemi, perché appunto voglio segnalare questa realtà e voglio che si conosca, si sappia. Certo. E sarà abbinato a qualche film? Come hai pensato un'eventuale uscita? Allora, io all'inizio avevo pensato perché ho avuto attenzione da molte di queste associazioni che si occupano di bambini nel carcere, anche di farlo vedere all'interno di queste associazioni. Poi il direttore delegato Cosetti a Venezia, alla presentazione, ha detto: ma dice, in realtà mi sembra che lo debbano vedere soprattutto le persone che non ne sono a conoscenza. Certo. E quindi ha fatto una specie di appello che ha messo all'interno del sito del Giornale degli Autori, che si chiama Adottate il piccolo Vito, e rivolto e distribuito agli italiani, per capire se qualcuno è interessato a proiettarlo in testa a qualche film per distribuirlo nelle sale cinematografiche. Intanto sabato comunque fa parte della rassegna Venezia a Roma, quindi sarà al Farnese. Bene. E su internet c'è un... C'è un sito che è www.millegiornidivito.blogspot.com. Benissimo. Allora, Elisabetta, ci risentiamo magari quando ci sono novità per vederlo? Senz'altro. Va grazie. Bene. Un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Come andiamo? Come andiamo? Ce la caviamo, dai. Ce la caviamo. Io sono rientrata con grande fatica da Lido, un festival molto intenso, impegnativo per gli addetti ai lavori, cioè noi, insomma, giornalisti, così. E quindi anche con un residuo quasi influenzale che mi sono portata. Comunque un bagaglio cinematografico altalenante, tra picchi di interesse e un po' qualche delusione, incontri, suggestioni. Tanto poi man mano che i film usciranno nelle sale avremo modo anche di parlarne, proprio rispetto alla tua visione veneziana. Sì, considera che le cose più interessanti non usciranno mai, comunque. Cioè, per esempio, il mio Leone d'Oro del Cuore non è stato comprato per la distribuzione italiana, e quindi o ne parlo adesso o non ne parlerò mai. Vai, dillo allora. Beh, per me è quello del filippino Brillante Mendoza, che è una storia, lui è, secondo me è veramente un genio della macchina da presa. Non so se hai mai visto qualcosa di no, tuo. No. E la cosa più impressionante è che riesce a macinare film a distanza, cioè tipo due film all'anno riesce a fare. E ha una sorta di si è nutrito di tanto neorealismo italiano e anche di nouvelle vague francese, comunque racconta storie legate alla Manila proprio povera, no? Alla povera gente, così, mm-hmm. anche quindi per noi che non abbiamo l'abitudine a vedere questi ambienti, è bello. E, aveva portato a Cannes un film, si chiama Kinatai, quasi un lungo piano sequenza di una notte sola, molto buio, con tante sonorità tipiche del suo cinema, assordanti, che non era piaciuto molto neanche a me, devo dire. E invece ha veramente strabiliato con questo film che è tenuto a sorpresa in concorso, si chiama Lola. Lola in filippino vuol dire nonna, ed è la storia di due nonne, le quali si trovano a confrontarsi su un fatto di cronaca locale, ma assolutamente quotidiano, dell'omicidio di un ragazzo per conto di un altro, solo perché era stato rubato un cellulare, cosa molto frequente a Manila, il furto dei cellulari. Mm-hmm. E da lì si diparte tutta una sorta di inseguimento narrativo sulle storie di queste due famiglie, che sono entrambe comunque governate di tipo matriarcale nelle Filippine, quindi queste nonne che un po' deliberano su tutto, tutte le decisioni della famiglia, e seguite proprio passo dopo passo con una macchina da presa fluidissima, plastica, penetrante, ti sembra proprio di entrare nelle vite di queste tre famiglie, anche perché vivono in palafitte sui canali di Manila, e quindi è quasi inebriante la visione di questo film, no? Mm-hmm. E poi una storia anche commovente, l'incontro fra queste due nonne, una è la nonna della vittima e l'altra non ha del colpevole, cioè, mm-hmm. e quindi è una storia molto forte. Purtroppo non ha avuto nessun premio. Pronto? Sì, ci sono. Senti, purtroppo non ha avuto nessun premio, e devo dire che comunque una buona parte della, cioè non ho sentito un critico che non l'abbia apprezzato, cioè mm-hmm. hanno tutti un bellissimo film, mm-hmm. Però sai, le giurie. Sì. Anche un altro film avrebbe meritato un premio, non ha avuto premi ufficiali ma solo collaterali, ed è Lourdes, di una regista tedesca, un film incredibile, uscirà però nelle sale con distribuito a dicembre, quindi avremo modo di riparlarne, ecco. Bene. Invece per le uscite in sala c'è qualcosa di veneziano questa settimana? Ma già usciti in sala di Venezia ci sono film di Herzog, se non sbaglio, Il cattivo tenente, mm-hmm. Remake, sì. Di cui io non avevo parlato forse, che ho trovato comunque un buon film d'azione, un ottimo lavoro, ma non mi ha particolarmente emozionato. Okay. Sicuramente non ha nulla a che vedere con Il cattivo tenente di Abel Ferrara, se non qualche elemento del personaggio, ma in un contesto completamente diverso. Parliamo di New Orleans, crimini completamente diversi, e comunque un attore che non ha paragoni, Nicolas Cage, rispetto a Harvey Keitel. E quanto Herzog, che è un regista strepitoso, quindi ha solo un modo diverso di girare rispetto ad Abel Ferrara. Io non voglio dare una qualità diversa, è solo proprio, no? Cioè, una qualità superiore e inferiore, solo si tratta di diversità. Per quanto riguarda, poi c'è Il grande sogno nelle sale, che è uscito, il film discussissimo di Michele Placido, sul 68, sognato da lui, è un lavoro molto personale. Io ne ho visto solo metà, però, quindi non posso tanto giudicarlo, anche se quella metà che ho visto non mi ha strabiliato. Ho capito. E anche parlando con gente che il 68 l'ha fatta, insomma, c'è niente di particolarmente folgorante da ricordare. Okay, ecco. Okay. E invece di film di Venezia che escono questa settimana, dimmi un po' tu. Il mio vicino. No, quello non è veneziano. Non è veneziano. Ah, Tris di donne e abiti nuziali. Sì, Terracciano, un film veneziano. Io poi volevo segnalare in particolare il film di Soderbergh con Matt Damon, The Informant. Esce questo venerdì, mi è piaciuto molto, devo dire. Allora, dunque, entrambi sono film veneziani. Dunque, sì. The Informant di Soderbergh è un bel film, l'ho visto anch'io, Venezia. Sì. Veramente soderberghiano, se vogliamo. Questo è un regista che anche lui ha una capacità realizzativa di una rapidità incredibile, riesce a fare ogni tipo di film e e stupire quasi sempre. Se io penso alle 6 ore di Che Guevara e poi penso a, che ne so, a Ocean's 11, 12, 13 e poi ad altre cose, no? Che riesce a tirar fuori questo regista davvero, insomma, è stupefacente. Questo è un film molto molto bello. C'è anche un Matt Damon in parte finalmente secondo me maturo, sì, perché a me non è mai piaciuto molto, sì, come attore, sì, sì, probabilmente non mi piace la sua faccia perché non è un cattivo attore, ma non mi piace lui, però devo dire che qui mi è un passo avanti rispetto a, sì, a tutto quello che ha fatto finora, sì, sì, sì. E poi Fini Terracciano, allora che non abbiamo potuto avere ospite perché alle prese con un nuovo film, per cui è impegnato nelle riprese e non l'abbiamo potuto sentire. Certo, allora Fini Terracciano, non so come dire, un buon lavoro di intenzioni, anche perché è una storia molto drammatica in realtà, no? Mm-hmm. Anche se può ammiccare alla commedia. Tu l'hai visto? No, non l'ho visto. Ah, non l'hai visto. Ambientata a Napoli, una Napoli quasi sempre notturna, con un Castellitto, Sergio Castellitto, che rifà il verso a un non vecchio, ma comunque Mastroianni di mezza età, per come si muove, per come gesticola, per il volto, anche come parla, no? Sì. E la storia di un giocatore incallito, giocatore d'azzardo, malato proprio di gioco, il quale continua a raccontare bugie, no? Imbrogli, inganni alla famiglia, pur di giocare perde tutto e perde anche proprio la faccia davanti alla sua famiglia, che è costituita da la moglie tedesca, che è Martina Gedeck, che ricordiamo una delle più importanti attrici tedesche, l'abbiamo vista in tutti i film tedeschi che sono arrivati in Italia, da Le vite degli altri a, che ne so, la banda Bayer-Hofer, vabbè, vari film, Le particelle elementari, sì, no, eccetera, sì, ecco, sì. E quindi lei funziona bene in quanto molto simpatica, molto teutonica, no? E i due figli, uno è interpretato da Paolo Briguglia, bravo, sempre bravo, e l'altro un'attrice giovane di cui non ricordo il nome. La ragazza si deve sposare, non ha i soldi per sposarsi perché, o comunque ne ha pochi, e comunque vengono sottratti dal padre quei pochi che ci sono per giocare, quindi gravi drammi familiari, il tutto appunto sullo sfondo di questa Napoli così che va un po' per i fatti suoi. E un po' un film concludente, mi dispiace anche, cioè comunque è un'operina, non lo so fino a che punto possa penetrare. Esce adesso, appunto, mi fa piacere per loro che esca il film, però devo dire la verità, mi dispiace a volte quando vedo l'uscita di un film e non l'uscita di altri film più meritevoli. Non voglio levare niente a nessuno, però insomma è una considerazione che mi viene spontanea. Anna, rapidamente, perché dobbiamo sentire Giovanna Taviani per il festival. Devo dire qualcosa del film della settimana. Sì, sì. Che è Il mio vicino Totoro. Sì. Totoro, anzi, si dice. Che è meraviglioso. Oh. È sempre al talento di Miyazaki. Siamo nel 1988, il film non era mai uscito in Italia grazie alla Kiradesce, ed è uno dei film più belli di Miyazaki. Bene, bene, quindi bene. Chi ama il genere, ma anche chi non lo conosce, deve andare a vedere. Conoscetelo allora. Ecco. E ricordiamo, film d'animazione, d'animazione, no? D'animazione, sì, sì, sì, sì. E cosa volevi dirmi? No, no, che ci dobbiamo salutare perché devo sentire al volo Giovanna Taviani per il Salina Doc Festival, Fest. Certo. Allora, buona fine trasmissione, un bacio a tutti. E ci si vede in sala. Ciao. Ciao.